Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Beh, partiamo subito dalle borse. Oggi il calo è pesante, quasi il 3% su Milano adesso, meno 2,91%. Francoforte perde il 2,20, Parigi il 2,60, Londra l'1,90, l'America perde l'1%. Che cosa è successo? Beh, un combinato disposto di alcune cose. La prima, questa mattina la brutta chiusura delle borse asiatiche, soprattutto Hong Kong perde il 2,30%, un più contenuto il calo in Giappone, meno 0,70%, come conseguenza dei timori di un rallentamento ormai sempre più diffuso dell'economia cinese. Già ieri davamo dei dati sulla bilancia commerciale cinese, molto positiva, ma non perché l'export sia cresciuto come la Cina si immaginava, ma semplicemente perché le importazioni, dovute anche al calo del prezzo del petrolio, sono risultate più basse in valore di quanto atteso. Anzi, l'export cinese è salito meno delle attese. E questo è l'aspetto di carattere internazionale. Poi ci si è messa da noi chiaramente anche la vicenda di Atene. Siamo stati facili profeti ieri nell'immaginare che la posizione di Atene, in cui il partito di estrema sinistra è sopra di 4-7 punti il partito del Premier Samaras, la richiesta che è arrivata dal governo ateniese di uscire dalla tutela, chiamiamolo così, o dalla gabbia, secondo alcuni, della Troica, quindi Banca Centrale Europea, Commissione Europea e Fondo Monetario, il timore che Atene a questo punto non rispetti più gli accordi è un timore che già ieri aveva fatto schizzare il rendimento dei titoli di Stato greci a 10 anni, BTP greci a 10 anni all'8%, che è una cifra oggettivamente insostenibile. Se dovesse essere prolungata nel tempo, una percentuale di un tasso di interesse insostenibile, oggi siamo arrivati al crollo vero e proprio della borsa di Atene. Ha avuto un calo di quasi il 13%, è il calo più forte, se ho ben visto, da 27 anni a questa parte, quindi non era mai successo che nemmeno durante la parte più dura, mi riferisco a 2011, metà 2011 e inizio 2012, quando ragionavamo sulla possibilità che Atene venisse espulsa dal circo dell'euro, mettiamola così, e riuscisse a reggere, non dichiarasse bancarotta totale, nemmeno allora la borsa era riuscita a perdere in un giorno solo il 13%, quasi il 12,78%. È chiaro che questo ha avuto un impatto immediato su tutte le borse europee, nonostante lo spread italiano sia a 132 punti, il rendimento sui BTP a 10 anni è ancora al 2%, quindi ci costa poco trovare finanziatori per il nostro debito, ma il tonfo è stato tale. Devo dire che sui singoli titoli, sì, UX perde il 5,30, Finmeccanica perde il 4,70, era cresciuta però nelle ultime sedute, Enel Green Power perde il 4,5, Fiat il 4,40, anche lì Fiat era cresciuta molto. Poi c'è un giudizio di Standard & Poor's sul gruppo. Le banche vanno male, ecco, non abbiamo tonfi e crolli del 6-7%. C'è il Banco Popolare che perde il 4,30, UbiBanca il 4,20, Pop Milano il 3,90, Unicredit pure, Popolare Emilia Romagna perde il 3,30, Mediobanca il 3,30. Il punto è che non c'è nessun titolo positivo tranne Mediaset, che guadagna il 3,20%. Se vogliamo, perdono meno degli altri: Moncler perde l'1,30, Ferragamo l'1%, Tenaris lo 0,90, Gtech lo 0,70. Quindi parleremo di borse, di Grecia, del vertice Ecofin, ma anche delle dichiarazioni, lo faremo in apertura, del numero uno del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde, oggi a Milano, ha espresso favore totale nei confronti di una banca centrale europea che compri debito dei paesi, e quindi una forma di quantitative easing da questo punto di vista, dicendo che però non si può lasciare tutto in mano alla Banca Centrale Europea. Ma la Lagarde è stata molto netta, l'area euro deve sparare tutte le cartucce, la politica monetaria da sola non basta, va bene comunque l'acquisto di titoli sovrani, cioè di debito, di BTP, di bot, dei paesi in difficoltà da parte della Banca Centrale Europea, una posizione questa che sappiamo essere vista con molto molto scetticismo in Germania, tant'è che Angela Merkel oggi è tornata sul tema, bisogna rispettare le regole che ci siamo dati, sì va bene, nel giorno in cui però l'export tedesco frena, meno 0,5% a ottobre, anche qui un po' come in Cina, siccome è frenato di più l'import, meno 3%, il surplus, quindi l'attivo della bilancia commerciale, sale a 20 miliardi e 600 milioni, ma più per un calo delle importazioni che non per un aumento delle esportazioni, che appunto sono calate dello 0,5%, segnalare che la Germania è completamente assorbita nella frenata dei paesi che ha attorno, oltre che alla frenata cinese. Parleremo anche di una notizia che rientra in questo scenario, e cioè oggi l'Istat ha fotografato il numero di italiani che, allora, a me non piace il termine in fuga, nel senso che quando uno va all'estero lo fa se è giovane per acquisire esperienza, se non è così giovane anche perché ha delle opportunità. Io non vedo la fuga sempre come una cosa, è già una declinazione negativa. Un'esperienza all'estero noi l'abbiamo spesso raccomandata, a maggior ragione se uno è giovane e non ha vincoli di carattere familiare o di altro genere, è fondamentale. Poi bisogna capire quando e come ritorni, per cui a me il termine fuga non piace, però il numero di italiani che hanno scelto di lasciare l'Italia trasferendosi in un paese all'estero è al record degli ultimi 10 anni ed è cresciuto rispetto all'anno scorso del 14%, sono 82.000, pensate che sono il 21% in più rispetto al 2012, quando già non si stava bene e la crisi mordeva. Però questo vuol dire che da un lato si va a studiare all'estero, si va a lavorare all'estero, le ripeto, non è un elemento negativo, meglio fare un'esperienza in Europa o anche fuori dall'Europa che restarsene a cercare lavori precari in casa, non aumentando il curriculum. Altra cosa è che queste persone poi rientrino. Ovvio che i dati sulla disoccupazione italiana e le scarse prospettive in questo paese siano alla base di questo dato, ne parleremo più avanti. Nel giorno in cui l'OCSE fa sapere che la disuguaglianza in Italia è aumentata, nel senso che il 10% più povero guadagna un decimo del 10% più ricco. Però, e stiamo parlando del 2,4% rispetto al 24%, ma la cosa interessante è che tra il 2007 e il 2011 il 10% della popolazione più povera ha perso circa il 4% del reddito familiare, mentre quello disponibile ogni anno, mentre il 10% più ricco ha ridotto il calo allo 0,8%. Piove sul bagnato. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook, rapidamente le altre notizie in breve. Che dice: lei non vede il tonfo in borsa? Come no? Abbiamo detto che c'è un calo pesantissimo, ho detto che non ci sono crolli nei singoli titoli, nel senso che i cali vanno dal 2 al 4% sostanzialmente, eccezione fatta per Finmeccanica e Jux, ma che sia una giornata nera per le borse mi sembra che fosse abbastanza chiaro. Adesso vi arriviamo, comunque un attimo di pazienza. Alcuni contestano il fatto della fuga. Ma no, se fuga è un'accezione sempre negativa, io non sono d'accordo. Poi suffuggono i cervelli, sì, alcuni cervelli. Io ogni tanto faccio la battuta, qualcuno si sarà reso conto che la fuga dei cervelli non colpisce mai la politica, no? Neanche i giornalisti, aggiungiamo pure quelli. Allora, per quello che riguarda petrolio, oggi è leggermente in rialzo, comunque $63 il barile, resta ai minimi da 5 anni a questa parte. Nuovi dati preoccupanti che vanno a inserirsi anche nel calo oggi pesante delle borse riguardano di nuovo la Russia. Il PIL russo confermato in recessione a questo punto nel 2015, non più in crescita, meno 0,7%, spesi 4 miliardi e mezzo a sostegno del rublo. La Banca Mondiale ha tagliato infatti le stime anche per Mosca. E la banca centrale russa continua a cercare di sostenere il rublo senza grande successo, visto che anche oggi è vicinissimo ai record negativi della settimana scorsa: 54 rubli per un dollaro e 67 rubli per un euro. Pensate che il rublo ha perso solo a novembre quasi il 25% del suo valore nei confronti di euro e dollaro. Volete sapere se in Grecia, adesso ci arriviamo, i mercati siano spaventati da una vittoria di Tsipras? Sì, beh, certo, insomma, che sono spaventati dalla vittoria di chi vuole uscire da tutti i vincoli che la Troica ha messo e gli accordi presi. Questo è chiaro. Però torniamo un attimo su Christine Lagarde, direttore generale del Fondo Monetario, che ha detto appunto a Milano: bene, va bene il quantitative easing, cioè che la Banca Centrale Europea stampi euro comprando titoli di Stato. L'Europa deve fare, l'area euro deve sparare tutte le cartucce, la politica monetaria da sola però non basta. The Eurozone in our view has to fire on all cylinders. L'Eurozona deve dar fuoco a tutte le sue cartucce. Lasciate che cominci dalla politica monetaria. Questa è sempre stata in prima linea nel panorama politico e deve continuare a giocare un ruolo cruciale a sostegno della domanda. La BCE ha intrapreso passi coraggiosi nei mesi recenti, annunciando ad esempio significative acquisizioni dirette di obbligazioni private. Queste iniziative dovrebbero aiutare a sostenere la domanda e evitare i rischi di un'inflazione persistentemente bassa. Se le prospettive di crescita e inflazione dovessero peggiorare ulteriormente, la BCE ha indicato che è pronta a diversificare ancor più il proprio bilancio, anche tramite l'acquisto di fondi sovrani. Questo è sicuramente un dato positivo, ma la politica monetaria da sola non è sufficiente. Anche la politica fiscale ha un ruolo fondamentale da giocare e le misure fiscali devono sostenere il più possibile la crescita e il lavoro. Pensare a progetti di infrastrutture pubbliche paneuropee, efficienti anche dal punto di vista dei costi, può aiutare a gettare le fondamenta di una crescita sostenuta. Basti pensare a investimenti transfrontalieri nei trasporti, comunicazioni e reti energetiche. Sono ingredienti chiave per sostenere l'innovazione e la crescita della produttività. These are key ingredients to support innovation and productivity growth. Così appunto il numero uno del Fondo Monetario nel suo discorso all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università Bocconi qui a Milano. Dicevo, nello stesso giorno però Angela Merkel è tornata a dire che l'Europa deve rispettare le regole che si è data, parlando al congresso della CDU a Colonia. Se alla fine non rispetteremo quello che abbiamo deciso durante la crisi, provocheremo dei dubbi e questo sarà negativo per l'Europa. Sì, adesso non posso riempire la polemica ogni giorno con la Germania. Vado avanti invece e andiamo all'Italia, poi arriveremo ai temi europei, dove la buona notizia riguarda la vicenda della Lucchini e quindi dell'acquisto da parte della Gianina Sevital. Su questo è intervenuto oggi il Premier Matteo Renzi dopo aver presenziato la firma dell'accordo Lucchini e Sevital a Palazzo Chigi, che ricordo permetterà non solo di mantenere l'occupazione a Lucchini di Piombino ma anche di aumentare gli investimenti nei prossimi anni. Giusto il tempo di esprimere la mia soddisfazione, la mia gioia, la mia gratitudine per questo importante accordo che viene siglato oggi. Si tratta di un'acquisizione strategica per Cevitale, si tratta a mio giudizio di un grande, grande messaggio Messire Brab per gli investitori stranieri e più in generale per il futuro di un settore che per noi è assolutamente decisivo nel domani. Piombino è un pezzo del futuro dell'Italia. L'industria manifatturiera, l'industria siderurgica, l'industria tradizionale è un pezzo del futuro dell'Italia e non soltanto del passato. E l'apertura a un investimento straniero è per noi un elemento di orgoglio. Noi pensiamo che sia un valore significativo quando realtà internazionali decidono di investire nel nostro paese. Nel passato l'Italia ha avuto paura degli investitori stranieri, oggi siamo ben felici e orgogliosi di poter dire che il nostro mercato è un mercato globale, mercato aperto, ma contemporaneamente che la qualità dell'Italia è quella di fare cose belle con grande capacità e grande determinazione e tenacia. Un grazie anche ai sindacati. Può sembrare per voi che sia una stranezza che questo elemento di gratitudine sia espresso dal sottoscritto, lo faccio ben volentieri perché, come sapete, abbiamo opinioni diverse su alcune questioni, su tante questioni, ma quando si tratta di ragionare nel merito delle vertenze aperte è fondamentale che si discuta insieme. Abbiamo discusso insieme anche su Piombino, quindi il mio grazie alla FIOM, alla FIM, alla UILM, a tutte le sigle sindacali, i confederali, i territoriali, tutte le sigle sindacali. Sempre sulle vicende che riguardano anche il rapporto con i sindacati, poi Matteo Renzi ha detto, lo ha scritto, è andata su Twitter, anche l'aver chiuso la vicenda Terni e Piombino, la legge sul rientro dei capitali, l'autoriciclaggio, la nomina di Andrea Guerra, anche questo, e poi la vicenda IVA, anche questo è Jobs Act. La risposta in qualche modo dei sindacati. Allora, il leader del CGIL Susanna Camusso, durante la conferenza stampa con il segretario generale della UIL Barbagallo, per ribadire, presentare le ragioni dello sciopero, del prossimo sciopero generale di venerdì 12 dicembre, ha detto: il nostro non è un dibattito ideologico, serve invece il lavoro. È l'approccio che noi non condividiamo, cioè che la premessa sia che tutto è monetizzabile e tutta la discussione a cui assistiamo, leggiamo, è fatta e costruita sull'idea che se tu hai fatto un licenziamento ingiustificato e quindi hai leso la dignità di quel lavoratore, l'hai accusato di cose ingiuste, l'hai discriminato e così via, se lo mascheri in altro modo, siccome non c'è il reintegro, è, come dire, monetizzabile. Poi facciamo un ampio dibattito se un X è una... Il tema è che in questo modo tu fai venir meno la ragione deterrente di questa norma e quindi rendi comunque il lavoratore più in difficoltà, perché un'impresa deciderà se ha abbastanza risorse o meno, non se rispetta le regole, se rispetta quel lavoratore, se ha quel riconoscimento di cittadinanza che è necessario. Per questo che la discussione è davvero... è una discussione sbagliata. E su questo anche il neo segretario generale della UIL Carmelo Barbagallo, a proposito delle discriminazioni che secondo i sindacati produrrà il Jobs Act con il contratto a tutele crescenti, dice: qui altro che serie A e serie B, i lavoratori finiranno in serie C. Se a un giovane si dice che gli si sta dando un contratto a tutele crescenti, invece è soltanto a tutele per i datori di lavoro, perché un giovane può essere assunto con una mansione e la mansione per legge, così come previsto, verrebbe cambiata in corso d'opera. Se può essere assunto con un voucher piuttosto che con un contratto a tempo indeterminato molto più serio, se può essere licenziato dopo aver installato i controlli audiovisivi quando si vuole, risparmiando anche su quello che l'imprenditore ha avuto di detassazione, diciamo, dei contributi, di contribuzione e dell'IRAP, scopriamo che i giovani hanno tutto da perdere da un'impostazione di legge di questo tipo. E per questo diciamo: altro che diversità di serie A e serie B, siamo alla serie C. Allora, apriamo adesso la pagina europea, poi arriveremo alla fuga dei cervelli, molti messaggi su questo. Attenzione, il problema a mio avviso non è che uno vada a fare l'esperienza all'estero, che anche chi vi parla l'ha fatta e non mi sembrava di essere in fuga. Certo che erano altri anni e il mercato del lavoro era diverso. Il problema a mio avviso è intanto se questi cervelli ritornano, ma soprattutto perché non riusciamo a assorbire altri cervelli che vengono a lavorare in Italia, perché è un percorso virtuoso quello di chi va a fare un'esperienza di 1, 2, 3, 4 anni all'estero. Il problema è che qua da noi arrivano, non voglio essere offensivo, pochi cervelli, c'è poca capacità di attrarre lavoro, oltre che grande capacità di mandarlo all'estero, per cui sono vari aspetti. In questo senso, secondo me, l'esperienza all'estero non è sempre una fuga in senso negativo. Poi, in molti casi, sta diventando una necessità tout court, non una scelta, e questo è l'altro problema grosso. Allora, il ministro Padoan sul vertice Ecofin dice: abbiamo trovato un accordo sul bilancio europeo che permette di pagare le bollette arretrate, salvaguardare i bilanci dei paesi membri e trovare risorse per il rilancio della crescita. E poi è intervenuto sul tema di attualità in questi giorni, cioè lo sforzo in più che sarebbe stato chiesto all'Italia oltre che alla Francia e al Belgio. Sentiamo questo passaggio. Ho visto l'esercizio di sottrazione del mio collega Dijsselbloem, meno 0,5 meno 0,1 fa 0,4, confermo. La questione è un'altra, cioè che si tratta di precisare se l'impatto delle misure che il governo italiano ha già adottato è effettivamente corrispondente all'ammontare di aggiustamento che era stato già concordato con la Commissione europea, quindi questa non è una manovra aggiuntiva. Lo sforzo in più ha a che fare con l'efficacia delle misure, quindi continueremo a collaborare, a discutere in modo molto produttivo con la Commissione sulla valutazione che noi e la Commissione diamo su misure che abbiamo già introdotto. Questo è il punto. Ogni misura non è semplicemente scrivere una cifra su un pezzo di carta, ma entrare nel merito delle misure e chiedersi se effettivamente le misure daranno i risultati che noi pensiamo in base alla caratteristica tecnica delle misure. Quindi è un discorso, diciamo, molto nei dettagli che era già iniziato e che andrà completato. Adriana Ceretelli, editorialista del Sole 24 Ore per i temi europei, in collegamento con noi da Bruxelles. Buonasera Adriana. Buonasera. Allora, so che alcuni ascoltano il nostro duetto, ma male che c'è qualcuno che si accontenta di poco. Allora, di poco per quello che mi riguarda perlomeno. Adriana, primo punto, poi arriviamo alle altre dichiarazioni di Padoan. Tutto il dibattito a cavallo del fine settimana e anche ieri su misure e sforzi aggiuntivi che l'Europa ci chiederebbe, le varie dichiarazioni di Moscovici, di Dijsselbloem, avete tempo entro marzo ma dovete prepararvi. Padoan, da quello che abbiamo fatto sentire, dice: sì, al di là del fatto che meno 0,5, che elevato a meno 0,1 faccia meno 0,4, siamo d'accordo, bisogna capire, intendersi sulla correzione, se è già incamerata o no. Ma insomma, io vorrei capire, dare un giudizio più, se possibile, politico, come si è chiusa questa partita in cui l'Europa sembra chiedere uno sforzo ulteriore all'Italia, da lì tutte le smentite di una manovra correttiva. Il ministro è sembrato dire: no, attenzione, bisogna capire come valutiamo l'efficacia delle riforme e se questa correzione è già incamerata nella nostra manovra oppure no. Adriana. Sì, indubbiamente la questione sta in questi termini, nel senso che oggi ci troviamo di fronte a un patto di stabilità che impone certe regole e al tempo stesso di fronte a una realtà che non consente di rispettare queste regole. Questo è il problema di fondo. Non lo consente, a meno che naturalmente non si voglia accentuare la recessione, la deflazione e tutto quella disoccupazione, tutto quello che ben conosciamo. Ed è un po' questo il dilemma di fronte al quale oggi si trova l'Europa. Allora, da una parte l'Europa continua, prima la Commissione, poi il Ministro dell'Eurogruppo, a dire che bisogna fare sforzi aggiuntivi oppure rendere più efficaci le misure già prese in modo da rispettare le regole del patto. L'Italia e la Francia soprattutto rispondono: non ce la si può fare oltre un certo limite. Padoan è molto più diplomatico, dice in sostanza: in realtà voi vedrete che all'atto pratico noi le rispetteremo e naturalmente se così sarà non ci sarà nessun problema. Il problema invece è che secondo Bruxelles e anche secondo certi ministri non è proprio detto che le previsioni di Padoan si verificheranno, naturalmente tutti lo speriamo. La Francia invece ha un atteggiamento molto più liquidatorio. Sapin, il ministro, il collega di Padoan, dice chiaro e tondo: no, noi dimostreremo che le misure che abbiamo già preso sono sufficienti. Ora, questo sembra un po' un teorema impossibile, perché a quanto pare proprio la Francia di sforzi ne ha fatti molto al di sotto del necessario, mentre noi abbiamo in ottobre fatto uno sforzo in più, la Francia grosso modo ha dato molto poco e quindi secondo gli europei è indietro. Ma al di là di tutto, questa direi che è un po' un battibecco inevitabile. Sì, ecco, io poi da... su questo volevo arrivare, perché temo, e qui torno a essere serio, che agli ascoltatori e agli italiani in generale questo dibattito possa risultare un po' stucchevole. Mi spiego, è chiaro che bisogna capire se l'Europa ti impone una manovra correttiva o no, ma se qui ragioniamo no allo 0,5, no allo 0, e lo 0,1, la correzione inclusa nella vostra manovra, e cioè, ci dimentichiamo l'obiettivo finale, disoccupazione a record, un'Europa che secondo OCSE, Fondo Monetario e tutti gli organismi internazionali l'anno prossimo crescerà poco, meno delle attese, il rallentamento è in atto, e cioè, basta guardare che cosa sta succedendo in borsa oggi alla sola idea, infatti Moscovici, commissario europeo agli affari economico monetari, poco fa ha detto i mercati abbiano più fede nella tenuta dell'Europa, la sola idea che possa vincere l'estrema sinistra in Greca e possa andare sotto Samaras, Atene crolla del 13%. Cioè, mi sembra che questo dibattito rischi di ricacciare l'Europa in quella percezione che molti hanno di un gruppo di burocrati tutti lì concentrati sullo 0,1, 0,2 e no, dimenticando di guardare lo scenario. Dopo il metodo e la pubblicità vorrei un tuo commento su questo, ascoltando però anche cosa ha detto il ministro Padoan, sia sull'idea di sfondare il tetto del 3%, sia su quello che serve per far ridurre il nostro debito e il debito complessivo dell'area euro. Meteo, pubblicità, 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. La crescita è fondamentale per l'Italia, visto soprattutto l'onere del debito che ha. E la via d'uscita dal debito è la crescita, non ci sono scorciatoie. La crescita non si ottiene con la bacchetta magica, ma si ottiene soprattutto per un paese come l'Italia, attraverso la combinazione di riforme strutturali che devono aggredire ostacoli che si sono accumulati in due decenni, deve stimolare gli investimenti privati e deve continuare a consolidare in modo growth friendly, cioè favorevole alla crescita, il suo bilancio pubblico. In altre parole, è importante il sentiero di aggiustamento di finanza pubblica che continua, perché noi saremo nel 2015 al 2,6%, e continua nel miglioramento della sua composizione. Tagli di tasse finanziati da tagli di spese e uno stretto collegamento delle spese e dell'uso dei soldi pubblici che sono limitati con le riforme strutturali. Valga per tutti il Jobs Act da una parte, dal lato delle riforme, e le risorse per l'abbattimento del tax wedge, del cuneo fiscale sul costo del lavoro e incentivi all'assunzione, nonché risorse per le misure di sostegno, gli unemployment benefit, cioè le misure di sostegno. Pensare che sfondare il tetto del 3% esplicitamente possa produrre più crescita è profondamente sbagliato. Sbagliato dal punto di vista della fattualità economica, perché produrrebbe un immediato inversione di tendenza del debito, produrrebbe un'immediata reazione negativa sui mercati finanziari e quindi alla fine l'effetto sulla crescita sarebbe esattamente il contrario e arriverebbe immediatamente ci verrebbe immediatamente addosso e sarebbe un onere che non possiamo sicuramente permetterci. Questo al di là del fatto che le regole vanno rispettate, quindi le rispondo sia sul piano del rispetto delle regole sia sul piano della cosiddetta convenienza economica. La convenienza economica ci dice esattamente il contrario. Allora, Adriana Ceretelli, mettiamola tutto. Il tema è, da un lato c'è un timore sul debito italiano che è al 136% del PIL, se va oltre il 140% del PIL va oltre una soglia giudicata non più sostenibile. Questo è un primo timore. Dall'altro però... Padoan ha detto, attenzione, l'unico modo per uscire da questo debito è tornare un po' a crescere e ridurre le tasse, aumentare gli investimenti e quant'altro, non sfondare però il tetto del 3%, ci sarebbe una reazione sbagliata dei mercati. A me sembra che Padoan stia cercando di tenere assieme tutto, no? Nel senso, componenti che forse nemmeno possono stare così assieme, Però qui c'è un problema di formalismo europeo o un timore di dei mercati vero e proprio, secondo te, Adriana? Ma secondo me c'è un problema obiettivo dell'Italia. Al di là del patto di stabilità o meno, delle regole europee o meno, il paese va riformato, così non va avanti. Anche se fosse fuori dall'euro, certo potrebbe svalutare all'infinito, però quale credibilità avrebbe un paese che la cui unica politica economica fosse la svalutazione? Quindi, e poi nel mondo globale non funziona così, c'è bisogno di una dimensione Europa per essere competitivi. Per cui secondo me il discorso di Padoan sta insieme ed è un po' il discorso europeo ed è un discorso nell'interesse del paese. Quello del lato mancante del ragionamento europeo, al di là di quello di Padoan, è la faccenda che in questo diciamo schema di politica economica manca il lato essenziale, che è quello degli investimenti, del ruolo dell'Europa nella crescita e del ruolo dei paesi virtuosi, quelli che stanno bene, che sono in surplus, nel stimolare e favorire gli investimenti per rilanciare, per fare volano di crescita. Tutto questo, dalla Germania agli altri paesi, gli scandinavi, che potrebbero avere dei margini di manovra, ecco, diciamo che non fanno praticamente niente, stanno alla finestra. Il famoso piano Juncker, che dovrebbe teoricamente dare un minimo di energia a questa Europa stanca, lo vediamo bene, che rischia il gioco delle tre carte, eccetera. Quindi il problema dell'Europa, secondo me, non è tanto quello di scantonare sulle riforme o sul rigore, quelli sono dei fondamentali che diciamo possono renderci ancora più competitivi rispetto lo facciamo per noi, non tanto globali, per l'Europa, diciamo. Certo, quello che però manca è, in una situazione di depressione come quella, soprattutto nel sud dell'Europa, ma nemmeno il nord, diciamo, che va alla grande, manca il fatto che non c'è coesione, non c'è fiducia, non c'è voglia di stare insieme, e dunque ognuno si chiude nel suo orticello più o meno grande e non fa niente per l'altro. Cioè, tu dici, come siamo, prego, un club, una moneta unica, dovremmo avere una politica economica più unica. Ma questo cosa significa? Che naturalmente i paesi ritardatari nelle riforme, con i conti fuori posto, eccetera, devono metterli in ordine, ma devono farlo attraverso anche uno sforzo collettivo che vede i paesi che invece sono in una situazione più favorevole smaltire i propri super plus dei e dare un contributo alla crescita europea. Torniamo all'esempio della famiglia. E torniamo all'esempio della famiglia, in cui se tu hai un fratello che ha speso male, lavorato male, allora lo metti in riga, si mette a studiare, a fare i compiti, come spesso diciamo, e qui è l'Italia, la Francia, in parte anche il Belgio, la Grecia sicuramente. Però poi nel frattempo, siccome il frigorifero non te lo può riempire quel fratello che adesso si sta mettendo in riga, gli altri che hanno tanti soldi o comunque hanno dei bei depositi in banca possono contribuire magari alla gestione della casa, altrimenti la casa va in malora complessivamente data. Su questo il tema degli investimenti dei paesi del centro nord Europa è un tema fondamentale. A me viene in mente quanto ci diceva Romano Prodi la settimana scorsa, e cioè che la Germania è leader ma non vuole esercitare la leadership. Mi è piaciuto molto come definizione, cioè è leader perché è il paese che da solo ha più peso in Europa, è l'economia principale, ha l'export più importante, ha il peso politico più forte a Bruxelles. Esercitare la leadership vuol dire però farsi anche carico dell'onere di guidare l'Europa verso una nuova fase, spiegare all'elettorato che non si può andare avanti solo con il rigore, accettare che i paesi, come tu dicevi, del centro-nord, che hanno conti pubblici messi molto meglio, spendono gli investimenti, facciano ripartire la domanda interna e i consumi. Forse andiamo veramente verso un'analisi di carattere politico e storico, perché sappiamo tutti perché la Germania ha timore di esercitare una leadership vera e propria, cioè l'assunzione di responsabilità e di guida. Adriana? Ma sì, in parte quello, ma soprattutto secondo me in parte per puro egoismo. Puro egoismo. Uno dice, ma a me cosa me ne importa in questi qua del sud, che svalutino le loro rispettive economie, così magari potrà anche capitare di fare buoni affari nei paesi del sud. No, è la questione della leadership, è la questione che i tedeschi oggi non vedono, che avere un'Europa che cresce tutta insieme è a loro cioè non dico esclusivo, ma no, no, ma è anche a loro vantaggio, a loro grandissimo vantaggio. Per cui loro vedono sempre uno sforzo in Europa come una sorta di quella che loro chiamano l'unione dei trasferimenti, cioè che tu aiuti i paesi più vulnerabili. Ma non è vero, perché quando noi prendiamo per esempio i fondi strutturali, diciamo una scemenza, che tutti, allora sono stati usati a piene mani in Francia, in Spagna, in Portogallo, eccetera. Ma con le belle strade, autostrade, i treni ad alta velocità, chi è che ha venduto le BMW, le Audi, Siemens, eccetera? Quindi è sempre un gioco di do ut des, per carità, è vero che tu con i fondi strutturali dai una mano ai paesi meno sviluppati, ma lo sviluppo di quei paesi, diciamo, ti rende in termini di benefici alle tue industrie, eccetera, eccetera. E lo stesso è oggi in una situazione di non crescita, ma quanto l'Europa può continuare a stare insieme senza crescere? Sono d'accordissimo. E allora la domanda diventa, ma l'Europa oggi per l'Europa è un bene o no? Io credo che lo sia nel mondo globale, però evidentemente ci sono anche tanti partiti. Vabbè, guarda, adesso sempre ci spostiamo come tema col prossimo collegamento alla Grecia, e lì obiettivamente adesso poi la Grecia ha 2000 responsabilità, l'abbiamo raccontato in tutti i modi possibili, però è innegabile che la Troica abbia avuto tra i vari effetti anche quello di far crescere, oltre il partito di maggioranza, il partito che vuole uscire dall'euro e da questa Europa. Sono d'accordo con te che ci può essere anche dell'egoismo, poi molti ascoltatori mi stanno scrivendo: guardate che tutto a convenienza, così comprano l'Italia in saldo, comprano la Grecia in saldo, che uno degli elementi della campagna elettorale di Tsipras è questo, cioè vogliono fare in modo che la Grecia non produca più niente, diventiamo solo consumatori. Faccio però un esempio nel salutare Adriana Ceretelli: quando gli Stati Uniti d'America nel 1945 decidono il piano Marshall, lo fanno per bloccare il comunismo, per non punire eccessivamente Italia e Germania soprattutto, e alcuni dicono anche per creare un mercato in cui vendere i loro prodotti. Può essere, però questo ha creato effettivamente dei mercati e poi delle industrie. Ha ragione Adriana Ceretelli nel dire che quando un paese usa i fondi strutturali e fa degli investimenti, ne beneficiano anche gli altri, perché noi sappiamo tutti che un po' più di ricchezza vuol dire qualche macchina tedesca in più comprata, che la Siemens è leader anche in tanta componentistica per quello che riguarda le costruzioni. Cioè non è che tutto si faccia in maniera autarchica. E la versione contraria è quella a cui stiamo assistendo: tutti frenano, e frena anche la Germania. Oggi ha avuto meno 0,5% come esportazioni a ottobre. Grazie Adriana Ceretelli, oggi stranamente eravamo molto d'accordo su quasi tutto, non so se devo preoccuparmi oppure essere contento. Traffico e poi borsa, c'è poco da dire, meno 2,80%, e il caso greco. Allora, ha ragione un ascoltatore che dice: sì, l'esempio della famiglia in cui non si può chiedere di riempire, qualcuno deve riempire il frigorifero e pensare anche agli investimenti così sulla casa, se gli altri fratelli invece stanno tirando la cinghia e facendo i compiti. Dice: attenzione, il fratello fannullone italiano è però il terzo contribuente del frigorifero. È vero, noi siamo il terzo contribuente dell'Europa e anche contribuenti netti, cioè in realtà noi poi i soldi li mettiamo più di quanti non ne riceviamo per l'Europa. Non capisco la domanda di come mai alcuni paesi europei vanno bene, te lo sei chiesto Barisoni, grande Mona. Non so cosa voglia dire Mona, però alcuni paesi vanno bene perché avevano fatto le riforme prima, l'abbiamo spiegato in tutti i modi, la Germania ha questo merito, le ha fatte Schröder e sono state riforme importanti, lui ha perso anche le elezioni. Altri paesi vanno bene perché non hanno mai accumulato 20 anni di ritardo nelle riforme. Non so cosa voglio dire Mona, però so che buona parte di questo paese ha votato in questi 20 anni il tentativo di non fare le riforme, di mantenere le varie caste o le varie tutele, il mercato chiuso, c'è una parte che era sempre in concorrenza, quella delle imprese, e poi il mercato interno. So che la classe politica se n'è fregata. Vediamo gli scandali in continuazione arrivare, stiamo raccontando da anni come i soldi pubblici vengono sprecati, questo so, ed è uno dei motivi per cui i paesi del nord, del centro nord, vanno bene, non tutti ma molti vanno bene. Detto questo, se noi siamo d'accordo nel migliorarci e nel fare i compiti, dateci anche il tempo, e soprattutto non è l'Italia che crea questo scenario economico, è l'Europa e l'intera area euro che si sta fermando, non è solo l'Italia, e tutto il resto va bene. Poi se mi traduce quella cosa. Allora, arriviamo alla borsa, meno 2,81%, ma partiamo dalla borsa di Atene, che ha conosciuto il calo più forte da 27 anni a questa parte, quasi il 13%. Vittorio D'Arold, del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Oh, ieri abbiamo già visto i BTP greci schizzare all'8%, ma tutto questo pandemonio per il timore che vinca la lista di Tsipras, che la Grecia, diciamo, rifiuti di continuare con gli accordi che ha firmato con la Troica, perché insomma Samaras ha indicato come candidato, se ho ben visto, l'ex commissario europeo Stavros Dimas. Moscovici, il commissario europeo agli affari economico e monetario, ha detto: ragazzi, ai mercati tranquilli, non è successo ancora niente, dovrebbero essere un po' più sicuri i mercati europei. E allora invece i mercati ragionano come sempre con delle prospettive, quindi loro dicono: se non si arriva a un accordo sul nuovo capo dello Stato e la Costituzione greca prevede che al terzo voto non ci sia una maggioranza di 2/3, cosa molto possibile, si va alle elezioni anticipate, che potrebbero essere ai primi di febbraio. Tutto questo vuol dire che se oggi Syriza, che ha vinto le elezioni di maggio, europee di maggio, e ha 7 punti di vantaggio su Nea Democrazia, questo potrebbe voler dire che Syriza sarebbe il primo partito in Grecia. Cosa vuol dire? Perché Syriza vuole ristrutturare il debito, cioè vuole chiedere ai partner di ridurre il peso degli interessi, che oggi sono 7 miliardi. Allora la questione non è sulle cifre, perché come ben capite, avendo noi già messo sul piatto 240 miliardi di euro, i 7 miliardi degli interessi o i 2,5 sono briciole. Ma perché la questione impaurisce? Perché se passa il principio che in qualche modo si va a fare una ristrutturazione del debito di un paese membro, per la piccola Grecia si crea un precedente e poi anche un altro potrebbe chiedere la stessa cosa, con tutti i riflessi che potete immaginare in terra tedesca. L'altra questione è che la Grecia potrebbe dire: beh, se non mi concedete nulla, mi strozzate, io a questo punto, sapete cosa dico, vi saluto e me ne vado. Ma anche qui sarebbe un precedente pericoloso, perché nei 18 paesi sarebbe il primo che dice che se ne va. Ecco quindi che la questione non è la Grecia nella sua piccola questione interna, politica, economica, tra la guerra tra Samaras e la lista Tsipras, ma bensì che cosa vogliamo, perché questa architettura europea non è come al solito. Ed è l'anello debole che mostra delle volte la fragilità dell'intera struttura. Dimmi una battuta, perché poi dopo il GR24 arriva la borsa. Se si andrà alle elezioni, vince Tsipras. Dovesse andare a febbraio. Con molta probabilità sì, perché è abbastanza, capace di aver capito che non deve minacciare e spaventare, ma nello stesso tempo promette di ridurre l'austerity, che dopo 5 anni ormai effettivamente ha stremato il paese. Grazie a Vittorio D'Arold. Ci sono giornate particolarmente ingarbugliate, oggi è una di queste in cui sembrano sommarsi i problemi. Comunque, dopo il GR24 parleremo della borsa e degli italiani che scelgono di andare all'estero. Adesso commentiamo la borsa, per chi si fosse appena messo in collegamento. Ricordiamo, giornata molto difficile oggi, crollo della borsa di Atene, quasi il 13% di calo, per il timore, come appena ricordato Vittorio D'Arold, che la Grecia vada alle elezioni a febbraio e vinca con ogni probabilità la lista di Tsipras, e quindi vengano rivisti tutti gli accordi firmati con l'Europa e anche gli interessi sul pagamento del debito. Devo dire, in una giornata così, adesso parliamo della borsa di Milano e poi arriviamo al dato sulla fuga degli italiani dall'Italia, grazie a tutti gli ascoltatori che mi hanno spiegato la definizione di Mona, era chiaramente una battuta, ho fatto le scuole dell'obbligo in Veneto e, viste le mie caratteristiche, il termine lo conoscevo nel suo doppio significato. Allora, andiamo sulle cose serie. È chiaro che con quello che è successo ad Atene le altre borse non hanno riso. Meno 2,80%, qui non c'è Sparta di mezzo, meno 2,80% Milano, meno 2,5% Parigi meno 2,20, Francoforte meno 2,14, Londra meno 0,90 l'America. Ricordo che anche questa mattina però aveva chiuso molto male l'Asia sui timori di, un timore sempre più forte di un rallentamento della crescita cinese, e la borsa di Hong Kong aveva perso sull'Hang Seng il 2,32%. Poi è arrivata anche la Grecia. Lo spread italiano è tranquillo, è a 132 punti, il rendimento sui BTP a 10 anni è al 2,01%, per cui però insomma, non si è salvato nulla oggi. L'unico titolo è Mediaset più 2,80%. Andiamo su quelli che hanno perso anche, diciamo così, per motivi propri. Lo facciamo come sempre con Radio Cori sulle 24 ore. Flavia Carletti, buonasera. Buonasera a tutti. Finmeccanica la peggiore, meno 5%. Fiat male anch'essa, meno 4,30%. E poi andiamo anche su Yux, Finmeccanica e Fiat. Finmeccanica diciamo, è stato il più penalizzato nella seduta di oggi per le prese di beneficio, c'è da ricordare che è uno dei titoli che ha corso di più dall'inizio dell'anno, infatti alla chiusura di ieri registrava un saldo positivo rispetto a inizio anno del 48%, quindi è probabile almeno gli investitori che in una giornata come questa, in cui siamo anche verso la fine dell'anno, in cui si aggiustano anche i portafogli, comunque hanno deciso magari di prendere beneficio su Finmeccanica. Su Fiat anche lì si veniva da una crescita, comunque poi c'è sono le perplessità di Standard & Poor's che ha confermato il voto sul debito Fiat, ma è stata un po' scettica sullo scorporo Ferrari, se ho ben visto. Sì, esattamente, è stato quello probabilmente che ha innescato più le vendite, perché il giudizio è stato una conferma del rating, è stato dato rating anche al collocamento che ha annunciato Fiat di 2 miliardi e mezzo del convertendo, però il giudizio è stato leggermente negativo sulla qualità del credito una volta che sarà eventualmente scorporata Ferrari per la quotazione, perché comunque anche se l'apporto è rispetto al bilancio generale della società è piccolo, comunque è molto positivo, e in più potrebbe esserci anche un effetto dilutivo sulla redditività del gruppo. Allora, male le banche, ma era immaginabile. Il Banco Popolare perde il 4,70%, Unicredit 3,80%, Pop Emilia Romagna pure. E poi andando sempre sul settore bancario, segnalo anche il Monte dei Paschi meno 2,20%, Intesa San Paolo meno 2%, debole il lusso ma non debolissimo rispetto alla giornata, Ferragamo meno 0,70%, Moncler meno 1,20%, diciamo Yux invece meno 5%, Enel ed Enel Green Power meno 4,70%, Enel Green Power meno 4,40%, Enel e Yux. Allora, diceva, su Yux è stato diciamo il titolo più penalizzato del comparto del settore, è anche uno dei titoli più venduti nel comparto dall'inizio dell'anno, e probabilmente c'è una differenziazione degli investitori sui titoli, mentre per esempio oggi c'è stato Hermès che a Parigi è andato molto bene, quindi in qualche modo ha forse salvato alcuni titoli del comparto. Infatti, come dicevi tu, Salvatore Ferragamo alla fine ha limitato le perdite facendo meno 0,67% rispetto a un listino che è andato meno 2,8%, invece Yux in questa differenziazione tra i titoli del lusso invece è stato quello che è risultato più penalizzato, ed è la stessa cosa che accade da molte sedute. L'unica seduta in cui un po' il titolo si era ripreso rispetto a questo andamento negativo delle ultime settimane è stato dopo i dati di quello che viene chiamato il Cyber Monday della settimana scorsa, altrimenti comunque sta seguendo un po' un trend negativo di alcune sedute. Allora, sempre sul settore energetico, Snam meno 3,80%, chiaro che qui pesa anche il prezzo del petrolio. Oggi però Eni, per quello che riguarda sempre il settore petrolifero, adesso ve la cerco, se riuscite, eccola qua, meno 2%, devo dire che si è salvato veramente poco a parte Mediaset, migliori e peggiori in assoluto, Sacom più 4% e poi Mediaset, peggiori Modelleria Brambilla, ieri abbiamo chiarito cosa fa, componenti per l'automotive, meno 9,27%, ma aveva fatto un debutto fortissimo, Seat pagine gialle meno 9%, Movimax meno 7,70%. Fa notare un ascoltatore che anche Shanghai ha perso tanto, è più di Hong Kong, il 5,5%, è vero. Per concludere, Flavia, hanno pesato di più le borse asiatiche di questa mattina o alla fine per l'associazione Atene? Le borse erano già partite male proprio sulla scia delle borse asiatiche, però l'aggravarsi della situazione ad Atene con la borsa che ha iniziato a perdere a un certo punto della seduta più del 10% ha sicuramente influito più negativamente di quanto era stata l'effetto Shanghai di questa mattina. Grazie a Flavia Carletti, Radio Cori sulle 24 ore, euro quasi a quota 1,23, 1,24,03, e noi restiamo sui temi che riguardano anche l'Europa. Ma per toccare l'ultimo argomento di questa puntata, l'Istat oggi ha diffuso l'ultimo rapporto sulle migrazioni internazionali e interne e insomma emerge che nel 2013 si è toccato il livello più alto di italiani in fuga, ripeto, a me non piace il termine in fuga in senso negativo, ma che vanno a lavorare all'estero. Allora, 82.000 persone l'anno scorso, il numero più alto degli ultimi 10 anni, più 20% praticamente rispetto al 2012 e più 13% rispetto al solo all'anno precedente, quindi al 2011. Sono soprattutto le persone tra i 20 e i 45 anni. La meta preferita dei laureati è il Regno Unito. Gli italiani rientrati dall'estero sono stati invece 28.000, 1.000 in meno rispetto al 2012. E poi c'è un dato a mio avviso ancora più forte, se così possiamo dire: il numero di cittadini stranieri che hanno lasciato l'Italia nello stesso periodo è aumentato del 14%. E arrivano anche meno immigranti nel nostro paese. Non è che tutti gli immigrati sono sempre, diciamo, extracomunitari che chiedono asilo. Un paese sano attrae anche cervelli, invece abbiamo fatto meno 12% nel 2012-2013. La comunità più rappresentativa è quella rumena, 58.000, poi Marocco 20.000, Cina 17.000, Ucraina 13.000. Con massimo rispetto per questi paesi, temo che questo tipo di immigrazione non sia, diciamo, nella parte alta della qualifica del lavoro. Professor Mauro Magatti, che insegna sociologia, è preside della Facoltà di Sociologia alla Università Cattolica di Milano e insegna sociologia della globalizzazione. Buonasera innanzitutto. Buonasera. E grazie anche al nostro Sergio Nava che conduce, oltre che occuparsi di temi europei, e conduce ogni sabato alle 13.30 su Radio 24 Giovani Talenti, che si occupa proprio anche dei cervelli in fuga. Ciao Sergio. Ciao. Traffico, e poi cerchiamo di capire, ripeto la tesi: andare all'estero, soprattutto quando si è laureati o se si vuole studiare, non è una fuga in senso negativo, è un atto di investimento sul futuro. Per cui, ripeto, chi vi parla lo ha fatto per molti anni, è un arricchimento, è giusto, io lo renderei, non dico obbligatorio, ma quasi. Altra cosa è parlare di fuga, cioè di un paese da cui ci se ne va ma non si torna, e soprattutto se noi non riusciamo a diventare un paese attraente per altri cervelli, come fa mitica è Londra e la Gran Bretagna, ma non c'è solo Londra e la Gran Bretagna. Traffico. Allora, Sergio Nava, fuga in senso negativo o esperienza, e quindi fuga in senso positivo, di chi capisce che il mondo ormai si è così globalizzato che non basta più stare in Italia, forse nemmeno stare in Europa? Ma secondo me ci sono, Sebastiano, entrambi gli aspetti. C'è sicuramente un paese in crisi che viene percepito soprattutto dai giovani. L'età media di chi espatria, ci dice l'Istat, è di 34 anni, quindi stiamo perdendo capitale umano e soprattutto forza lavoro nella fase più produttiva. E poi c'è chi effettivamente vuole fare un'esperienza all'estero e quindi vuole approfittare al meglio di questa globalizzazione. Ci sono dei dati, secondo me, che emergono, oltre a quelli che hai già detto tu poco fa e che lasciano abbastanza attoniti, se vogliamo. Saldo netto migratorio nel 2007 era di circa 500.000, tra chi arrivava e chi partiva all'Italia era 500.000, ora è 182.000, quindi l'Italia ha perso tantissima attrattività. Altra cosa, Regno Unito, do solo un dato: noi prendiamo da Regno Unito, vengono in Italia 687 laureati, ci dice l'Istat, e ne diamo 3.317. Quindi ogni anno. Questo nel 2013. Questo parliamo di capitale umano qualificato che lo Stato ha investito, sì, però, su cui lo Stato ha investito. Come tu ricordavi, il tema vero è: uno, un laureato, va via dall'Italia, o anche un quarantenne, 45enne, per una nuova esperienza, perché capisce che qui ormai il mondo si sta provincializzando. Non c'è solo Londra, c'è Shanghai, c'è l'America, ci sono gli Stati Uniti, alcuni vanno in Brasile, altri in India. oppure perché qui veramente si ha la sensazione che la nave stia galleggiando. Mi ripeti un attimo il saldo netto, il mezzo milione, chiarendo bene il dato? Allora, questi sono dati Istat, ovviamente non vanno presi con le pinze, perché prima di dirti il dato va anche specificato che quando parliamo di 82.000 probabilmente sono più del doppio, perché i trasferimenti è ben noto, i consolati stessi ormai ce lo dicono, tra chi si registra effettivamente, chi segnala il proprio trasferimento è uno su due, se non uno su tre. Quindi molti vanno a Londra, a Parigi e non lo dicono, a Francoforte non lo dicono, ottengono magari la residenza in Italia, anzi, quindi non fanno la residenza all'Aire, mi sembra che si L'Aire chiama. Addirittura sul 2013 ne segnalava 94.000, quindi già fonti ufficiali hanno una discrepanza di 14.000 unità, questo per far capire quanto siano poi alla fine attendibili. Prendiamo come dato statistico, comunque, per rispondere alla tua domanda, tra gli immigrati che venivano in Italia nel 2007 e diciamo chi partiva dall'Italia, italiani e stranieri, la differenza era di 500.000, cioè guadagnavamo 500.000 di popolazione, ora guadagniamo meno di 200.000. Sì, poi ci sarebbe il ragionamento sulla qualifica di chi viene, però professor Magatti, lei ha condotto una ricerca molto importante anche sulla resilienza, che è un termine che va molto di moda adesso, cioè la capacità di resistere, quando un corpo resiste a un urto e poi si riappropria della propria forma e magari e non subisce il colpo. La capacità di resistenza non è detto che sia solo in chi resta in Italia, nel senso che, ripeto, è un'esperienza che io consiglio vivamente, invece che far tanti viaggi o mettere via i soldi per la casa del figlio che poi magari guarda le pareti da disoccupato, meglio spenderli per un investimento di formazione all'estero o anche professionale o anche di stage. Però è inutile girarci attorno, vedi i messaggi. Insomma, la traduzione di questo dato è: ormai siamo un paese che, da cui scappano, le persone scappano, e questo denota come siamo sempre meno attrattivi. Come si può coniugare una capacità di resistere e innestare anche nel paese l'idea che non è che tutto stia andando a quel paese e che siamo nello sprofondo, con però i dati a cui, che registriamo e che osserviamo, cioè la sensazione che poi in realtà sia quasi più una fuga che una voglia di formarsi per poi tornare? Ah, mettiamola così, l'Italia è una delle ragioni per cui siamo in ritardo, non ha avuto tanto le porte aperte nel passato, negli anni 80-90. In questo momento i ragazzi, i giovani, diciamo, chi ha ancora sangue in corpo e voglia di fare e speranza di vita, realisticamente, ragionevolmente, razionalmente capisce che ci sono più possibilità all'estero e magari gli vengono anche offerte di quanto non sia in Italia, quindi si sposta. Io posto la mia piccola esperienza personale: i primi due figli, uno lavora, fa l'architetto a Losanna, il secondo ha aperto un ristorante a Quito addirittura. Due su due, diciamo così, le in Ecuador due. Quindi però. In Ecuador, quindi, perché comunque anche in un paese come l'Ecuador, dove ci sono c'è un tasso di crescita maggiore di quanto si inserisca, diciamo che può essere un investimento questo in un momento di difficoltà, una modalità di resistere anche è andare all'estero più di quanto non abbiamo fatto nel passato. Credo che tanti siano fuori con la speranza, con l'idea di poter rientrare in un momento in cui le cose possono andare meglio. Diciamo che stiamo facendo un investimento che forse abbiamo fatto meno in passato, e speriamo che nel giro di 2, 3, 4 anni però, questi ragazzi tornino. Ecco, professore, voglio seguire il suo ragionamento. Se fosse così, non voglio essere ottimista a tutti i costi, però potremmo anche dire che in questo periodo di crisi, di congiuntura negativa e quant'altro, c'è una generazione non solo di laureati, perché giustamente molti mi segnalano anche lavori diversi, e non solo di giovani, che sta andando all'estero, dove acquisirà competenze, visione soprattutto, know-how, perché vedi quello che fanno gli altri, non vai all'estero solo per farti il viaggetto sul Mar Rosso, e tornerà un domani, quando la situazione sarà messa meglio, con delle competenze, cioè formata e più preparata, senza che a noi sia costato nulla come collettività, e darà un contributo migliore a questo paese. Fin qua, voglio dire, tutto bene, cioè potrebbe essere anche un fa di necessità virtù durante questa crisi. Il problema però, Magatti, è come facciamo venire voglia di far tornare in questo paese, perché non è solo la crescita del PIL, non è come domani che è stato premiato sul merito, poi ha un ben dire Derita che scivola su una buccia di banana, i giovani non vedono il merito e poi suo figlio prende il suo posto, dai. Però dico, no, al di là di questo, Cioè, il problema non è solo vedranno la crescita del PIL del 1% e diranno bene, tutti in Italia, quando diciamo sanno benissimo che il merito altrove viene applicato meglio. No, e beh, certo, la mia era un'interpretazione, diciamo, per guardare il positivo. No, no, ma io sono d'accordo che queste persone, se dovessero ritornare, avrebbero delle competenze ben più forti in qualunque livello e con qualunque qualifica professionale. Però poi questo paese deve mettersi anche in testa, e non è che leggendo di Roma Capitale, del Mose, dell'Expo, uno pensi che questo paese sia così cambiato nel suo profondo. No, no, no, appunto, certo. Allora, che cosa può rendere realistica questa lettura? Quello che continuiamo a ripetere ormai da anni come una litania, che dobbiamo fare una serie di riforme, che dobbiamo prendere atto come una cosa positiva, non come una cosa negativa, che lo stare al mondo, cioè essere in grado di competere, ma che significa essere organizzati in maniera adeguata rispetto agli altri, è una cosa desiderabile per noi, per i nostri figli, non è una cosa, come dire, maledetta. Però lei, da sociologo, questo mutamento di pancia del paese lo vede o no? Perché, voglio dire, ogni tanto io la racconto, ma insomma, una volta, no, quando tu prendevi un brutto voto a scuola, tornavi a casa e tuo padre te menava. Ora, non era un metodo Montessori, però mi rendo conto che avesse una sua efficacia. Io sarei un po' stufo di leggere notizie in cui vengono menati gli insegnanti che hanno dato un brutto voto al figlio, anche perché, così torno al termine di prima, se tuo figlio è mona, accettalo e poi fai un passo ulteriore, ricordati che la genetica ha fatto passi in avanti e arriva alla conclusione successiva. Per cui, insomma, il merito si installa anche, e non lei lo vede nelle analisi che fate, nelle ricerche, no, che fate, che le famiglie dicono sì, è giusto, occorre che mio figlio venga bocciato, se è un somaro, chi se ne frega del 6, dato a tutti i costi. Allora, la risposta, come dire, complessivamente è no, però bene, aggiungo che tra i ragazzi, cioè tra chi in questo momento è all'università, ma vedo anche per altre vie, diciamo, chi sta alle superiori all'università, io credo che in una quota rilevante di questi giovani ci sia ormai chiaro un punto, cioè che bisogna darsi da fare, che bisogna mettersi d'impegno, che bisogna tirar fuori le capacità che si hanno, perché sennò non si va da nessuna parte. Quindi c'è una spinta che, a mio modo di vedere, esiste nel mondo giovanile, diciamo, entro quelli che fanno l'università. La difficoltà maggiore stanno invece in chi è un po' più avanti negli anni, dove c'è una stazione di molta inerzia e dove vedo scarsissima disponibilità, come dire, al cambiamento e anche a creare spazi per i più giovani. La vera difficoltà è un po' associata all'invecchiamento, che non è solo un invecchiamento anagrafico, ma un invecchiamento di un paese. Questo la vedo dura. Vabbè, va bene, si fa per dire. Grazie anche a Mauro Magatti. Io spero che poi nel nostro piccolo, con questo insistere su dei percorsi che sono anche più moderni rispetto, diciamo, a certe logiche un po' rurali, non meritocratiche, gli esempi poi non è che arrivino, ho visto un nuovo scandalo anche, mi sembra, alla Sapienza, comunque gli esempi non è che ne arrivino tanti, però che anda e rianda si riesca a arrivare a un paese che inizia a pensare ai suoi figli veramente, non al voto che deve dargli il professore, ma al futuro di questi figli, non l'appartamentino da comprargli e torniamo all'Italia un po' più rurale, ma diciamo al futuro che puoi costruire anche andando all'estero, con mamme che la smettono di piangere se il figlio è a Shanghai e sorridono contente perché sta facendo formazione, e papà che la smettono di prendersela con gli insegnanti e se la prendono un po' più con se stessi e con i loro figli. Grazie a Sergio Nava, grazie a Mauro Magatti, da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata. Ci risentiamo domani con un'altra giornata di passione dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.